This program is proudly brought to you by Spectrum Records. Bentornati ragazzi, compagni e amici della frequenza 103.g di Baby Radio. Volevo continuare il palinsesto di questo 10 giugno parlando un po' anche di letteratura, o meglio di medicina, di scienza. Noi siamo una radio e come tale siamo dei vettori di informazione. Non abbiamo mai parlato di libri, io non sono uno che si sbilancia, no? Quindi il mio consiglio vale poco di fronte alla scienza, ma in questo caso voglio parlare di un... probabilmente è il mio autore preferito, nonché l'unico che secondo me può salvarci dal male della disintossicazione. Lui è Mariano Lo Iacono, uno psichiatra, direttore anche del centro di medicina sociale di Foggia, è anche presidente dell'associazione Nuova Specie e ha creato questo progetto dell'ARCA, droga, drogati e drogologi, dall'emergenza droga all'inquinamento psiche, appunto il progetto ARCA di Mariano Lo Iacono. Io l'ho letto quando sono stato a Mesagne e mi ha cambiato uno il modo di farmi, il modo di affrontare la comunità e di relazionarmi con la gente che sta in comunità, perché poi è come una guerra, siamo prigionieri e dobbiamo o remiamo insieme o remiamo contro. Quindi come adattarsi alla comunità, come poter vivere appieno questa esperienza che sicuramente è dolorosa e faticosa, ma ti può insegnare anche a, come dice Lo Iacono, può insegnarti la psiche. Perdenati la radio che passa negli anni, sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere mai. Eh no, quella è roba mia. Non ti preoccupare, che c'è per tutte e due. Tagli la spada, tagli la spada! We'll be right back. Perché incomincia a scartare le spade intanto? Gastronomia, il piede coperto, l'unica gastronomia in grado di soddisfare i bisogni della chimica. Numero verde anche sul 144-16-1412, via della Grazia numero 12, Grazia dell'Edda. La tua vena non si vede bene? Vuoi farti una pinza inframuscolare? Non ti preoccupare, qua all'impero della vena c'è tutto l'occorrente per metterti in forma. Quando l'estate finisce, l'autunno si avvicina e in autunno vedere le vene è sempre più difficile. Puoi mantenerti in forma, puoi sollevare buste della spesa COP dove metterai le insuline e potrai pomparti a dovere. Se vuoi diventare perfetto, asciutto e soprattutto vedere le tue vene, vieni all'impero della vena. In via Sebastiano Sellio 44/G. L'uomo duro l'ha comprato, è mastito, fa delicato, si beve, tanto dentro il teatro, ascolta che dire. Che lo Iacono scrive nel libro, che noi abbiamo approfondito appunto a Mesagna, ma anche quando sono stato ricoverato a Foggia. E lui parte dal principio, diciamo, salvarsi tramite la masturbazione collettiva, non in comunità, cosa che quel bastardo di Mussolini non ci ha permesso di fare, tra parentesi, masturbarsi collettivamente. Quindi è già una visione che per questo nuovo mondo, perché tutto è in funzione di Kendall, anche lo Iacono sarà sicuramente il nostro scienziato di Kendall, no? E la masturbazione collettiva è sicuramente strumento di, oltre che di godimento, perché sapete che i tossici godono poco e diventa un nuovo modo di amarsi, amare la comunità. Voglio leggere un estratto del libro di Mariano e due righe che per me sono state altamente significative l'inquinamento della psiche. Ok, adesso vi leggerò questo estratto e poi faremo partire sicuramente un brano. Allora, il libro cita questo estratto: le attività dei singoli centri e i ruoli di ogni operatore. Sentivo ancora che per definire pronto? DJ Patrizio, sono Medeo, sono Dragone, sono ancora io. Oh, ma perché parlare di... perché parli di psicologia? A me mi piace la figa, inzaccherare. DJ Patri, e dacci un po' di figa anche, se no ci stiamo a parlare sempre delle stesse cose, film, Shark Attack, la droga. Voglio, ci piace la figa, te lo dice uno di Benevento, Maleventum, eh? Te lo ricordi? Il Malevento? Quanto puzzava la figa di Ramona, mamma mia, Maleventum, bel vento fetido che c'aveva. C'aveva i topi dentro quella carcassa, la puttana. Ciao, DJ Patrizio, ti ascoltiamo, dai, parlaci un po' di figa. Mariano lo Iacono, meno lo Iacono e più figa. Baby, radio, baby, radio. Trust in man. Trust in man. Problemi con la cintura di vostra moglie, Stefano Cipolla vi risolve il problema. Cintura antiaderente, e tua moglie non sarà più un problema, perché la bolli subito. Ciao ragazzi, sono Livio, venite da Video Livio al mio video noleggio in via Battindarno, vicino all'ortopedico. Abbiamo tutte le videocassette più famose e tante altre cose sempre in formato video. Ciao ragazzi. Allo, DJ Patricio, je suis François, dans la banlieue de Marseille. Je suis arrivé pour trouver toi à Boulogne. Come cazzo si arriva? Dove devo andare? Devo entrare nei bar qua a spaccare tutto. Patricio, c'è anche Marcel con me. Gli ho fatto lo sbiancamento. Ti salutiamo. Siamo appena atterrati, ti veniamo a trovare. Arrivi, j'arrive. La ronde. Vado anche a passare qualche serata in hotel stasera. Ho comprato l'escort, la Ford però. Ciao Patricio, ti ascoltiamo. Liberaci, liberaci dal male. Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party. Baby Radio. Yeah. Chiedo scusa per l'intervento dell'amico Amedeo. E comunque ti ringraziamo. Proveremo anche a... No, ma guarda che il libro Amedeo, prendo proprio spunto dalla tua telefonata, il libro fondamentalmente parla anche di orgasmi, perché ti ripeto, in comunità ci si... insomma, ci masturbavamo, c'erano delle ragazze, magari non come Ramona, ma... Comunque, riprendendo, mi limiterò a presentare alcune riflessioni riguardanti gli ambiti di mia più diretta esperienza. Anche perché a me sembrano quelli più vicini alla problematica strutturale che mi interessa evidenziare. Pertanto, riferendomi all'osservazione da me fatta di questi 12 anni di contatto con i disagi giovanili, dapprima mi soffermerò sulle tossicodipendenze giovanili. Successivamente accennerò le nuove devianze di prossima diffusione. Le tossicodipendenze giovanili sono tanto come il numero univo quel politico. Questo può essere apparso agli occhi di chi l'ho conosciuto stando all'esterno e mettendovi attenzione solo soprattutto nei momenti in cui è diventato un fenomeno da scopo, oggetto di cicliche riflessioni da parte dei mass media. In 12 anni di mia convivenza in quell'arcipelago che è Dante, ritengo di aver osservato 5-6 generazioni di drogati, rispondenti a tipologie qualitative diverse, impertati solo fenomenologicamente, compagni. Il punto B, il fenomeno tossicodipendenza, giovanili, no, a me adesso no, tieni lì al tocco. La droga, quando incominciai ad interessarmi di droga esistevano distinti luoghi di spaccio con le varie sostanze. Vi era luogo separato per il fumo, uno per l'eroina, uno per le sostanze stimolanti e uno per gli acidi. Inoltre per rifornirsi di alcuni tipi di sostanza, almeno dalle nostre parti, bisognava recarsi in certe città o fuori provincia o fuori regione. Tale selettività spaziale era in stretto rapporto con la tipologia dello spazio allora in auge. Infatti chi doveva procacciarsi la roba e recarsi in quegli spazi era in genere lo stesso tossicomane. Gli spacciatori a cui si rivolgevano erano altri tossicomani. Le modalità di incontro e di intesa corrispondevano quasi ad un codice iniziatico accessibile a pochi adepti. Tornato in sede, il piccolo mercato che a sua volta costituì attiva era rivolto quasi mezza cerchia dei consumatori ai prossimi affidabili segreti. Perché stava scoppiato, c'era anche il posto per un po' di compassione per uno schizzo. Solidarietà. Infine non vi era molto interesse ad estendere l'offerta e fare nuovi. Il clan era fatto per pochi eroi. Per mantenere una simile produzione e non farla circolare rischiando il discredito. Quanto a questi casi di psicosi conclamata, non ben valutabile, ci sarebbe da chiedersi, da approfondire perché i riti di iniziazione fisiologici si sia istituiti in specie, concludiamo il patto. Dunque, collocando le nuove devianze giovanili all'interno della cornice, a tempo con cui di concentrarci sull'inquinamento psiche. Quattro generazioni di disagio. Quinto nodo, le problematiche sociali correlate alla disagio della psiche. Quarta strada, poi ho finito, così sarete più solvati. Riguarda la risposta che abbiamo intrapreso e che si chiama Progetto Arca. You're listening to Baby Radio. facile. E allora prova a vincere difficile. The Snake. Via della grazia dell'Edda 14. Qua ci sono video slot, lotteria, bingo, ricchi premi e cotillon. Qua non ti puoi sbagliare, perché non si vince mancano cazzo. Però ti assicuro che se ci lasci soldi non ti fastidiamo più. Via della grazia dell'Edda 14, The Snack, video slot e grossi premi e cotillon. Non mancare. Se la vostra carta da parati vi ha stancato, non buttatela. Date vita alla nuova collezione, la Renaissance. Diamo fascicoli regalati in oro, in oro massiccio. Potrete trovarci in via della Grazia dell'Edda numero 6. Date un nuovo rinascimento alla vostra carta da parati, Valentino, Hermès, Ralph Lauren. Venite a trovarci in via della Grazia dell'Edda. C'è un fascicolo aperto per ognuno di voi. La Renaissance, dove anche la carta da parati è un'anima. Yeah, oh, Yes, yes, yo, bella ragazza, state ascoltando Baby Radio in diretta dal Polo. Ci vediamo sul Kendall. Yo. Restiamo uniti, la lotta continua qui su. Salve, benvenuti, bentornati a Radio Bebè. Questa sera abbiamo un sacco di ospiti. Non vedremo se avremo tempo di farli parlare tutti. No, dai, scherzo. Parlano tutti, parlano, che facevano delle facce qua di fianco. Parlano tutti. Allora, vi presento il primo ospite che ha un passato molto curioso. Lui non è mai nato, confermi. Sì, io ho nato. E adesso lasciamo parlare lui, non gli facciamo domande. Ecco Antonio. Buonasera a tutti. Io sono Antonio, l'uomo onnato. La mia storia, mi chiamano per vedere le mitragliette. Mi fui amato sotto l'armificio. Onnato quando venne a prendermi pioveva forte. E fosse passato un po' di tempo, a volte fu difficile poi parlare anche alla radio. Dai Antonio, facciamogli un applauso qua in studio. Ecco, dai Antonio, non fare così. L'altra volta ti ho sentito davvero convinto. Sì, ci vuole è un po' di tempo per una sigaretta. Fu nato quando, mi ricordo. Vai Antonio! Non lo so. Le parole a volte furono ardue. Mi ricordo quando mi presero dentro la scatola. Mi ricordo come fosse ieri, la scatola fu capovolta, poi nuovo, non parlo più, insomma. No, vabbè, adesso sono cose anche personalizzate, personali, un po' pioveva. Erano gocce, scendevano nel camion, mi portarono all'armeggiata 24. Ah, finora abbiamo capito bene qual è stato l'inizio poi l'inizio che non c'è stato, no? Perché tu non sei mai nato, è questo, noi vogliamo che parli proprio del fatto che non sei mai nato. Non ho detto questo io non fui nato, ma non ho detto che non ho nato. Io sono venuto qua, però mi fate anche rompere un po' le scatole, perché io sono venuto qua a Radio Bebè, mi dici, beh, però che non sei nato, non che non ho nato. Perché se no prendimi e torno a casa, ho nato. Quindi o vale che sono nato, oppure non che sei nato, tu. Mo, parlo, ci vuole un po' di coraggio anche, perché i giovani devono capire come un nascere. O è nato. Era, mi ricordo, pioveva, come ti ho detto prima, stava piovendo forte, mi hanno preso e non ho nato. Poi ripercorrendo le tappe quotidiane della vita, ho nato nella cellula, poi hanno detto che dalla cellula si sviluppa l'embrione e dall'embrione il fetuccio, e poi piano piano si sono sviluppati i malleoli. Quando tu permetti che le persone non vengono nei strani colloqui, non mi parlano di una cosa, ricordo bene la... Ciao Borsellino, sai chi sono io? Io sono Freddy la camicia sfiga merda. Io entro delicatamente nei qui e mi infilo dentro il retto e poi un sacco di cacca dentro la plastica. Sai chi usa? Vuoi sapere chi usa? Non hai detto la parola magica? Sai qual è la parola magica? Merda! Merda per tutti, una pioggia di una fresca di diarrea. Diarrea che scende. Oh, che coglione, che amore del culo! Sì, dai, dai, entra anche tu nel vetro. Tu ti vedi,